La prima cosa che ci tengo a sottolineare è che il posizionamento di questo prodotto è al di fuori del segmento dei notebook ed è proprio una sua prima particolarità. Con questo prodotto cominciano a essere presenti sul mercato quelli che noi chiamiamo mobile internet device, quindi non sono più riconosciuti come dei notebook perché hanno una forte caratterizzazione nella connettività e nella facilità d'uso che hanno nel connettersi verso internet. Sono dei prodotti che fanno della semplicità d'utilizzo la loro arma vincente, in quanto si possono attivare in pochissimi secondi, hanno un'interfaccia molto semplice da utilizzare e molto intuitiva, quindi anche per le persone che non hanno mai avuto un approccio con la tecnologia o vedono nella tecnologia uno strumento difficile da utilizzare, con questo prodotto invece in maniera molto semplice possono arrivare facilmente a utilizzarlo, quindi a navigare su internet, a connettersi con Skype, a connettersi con Messenger, a fare tutte quelle attività che sono legate intorno al mondo di internet.